sempre vissuto quel mondo pensando ai perché. Le guerre, i dolori, le favole. Sei il disegno perfetto di quello che ho sempre cercato. Anima fragile e senza peccato. Perché il mondo con noi gira, non lo puoi negare mai. E seppure sarai lontano da me, ricorda che puoi.